il sole sveglio ed è qua sugli occhi miei, e nei tuoi occhi c'è già la solitudine. Io non sono più quell'uomo che questa notte con te era tutto, tutto il mondo. Appena io me ne andrò fuori da qui, uno qualunque sarò tranquillo, mi do da fare, sai, per essere la persona che tu immagini ogni sera. Notte, notte, notte, notte scura, notte, notte, giorno fa paura, anche l'estate che freddo mi dà, che sapore ha. Che c'è, guardavo te, come sei bella così, quasi in disordine, sono lì per piangere, ma tu non vuoi, mi sorridi e poi mi saluti. Sapore ha di speranze inutili. Notte, notte, notte, notte scura, notte, notte, giorno fa paura. Cerco un battello che spiagge non ha, dove vivere le mie notti.